Di Karen Blixen, La mia Africa. Feltrinelli editore, traduzione di Lucia Drudi Demby. Parte prima, Camante e Lulu. Capitolo primo, La fattoria sulla collina. In Africa avevo una fattoria ai piedi degli altipiani del Gong. A un 150 km più a nord su quegli altipiani passava l'equatore. Eravamo a 1800 metri sul livello del mare. Di giorno si sentiva di essere in alto, vicino al sole, ma i mattini, come la sera, erano limpidi e calmi e di notte faceva freddo. La posizione geografica e l'altezza contribuivano a creare un paesaggio unico al mondo. Nulla che fosse grasso e lussureggiante. Era un'Africa distillata, lungo tutti i suoi 1800 metri di altitudine, quasi l'essenza forte e raffinata di un continente. I colori, asciutti ed arsi, parevano colori di terracotta. Gli alberi avevano un fogliame delicato e leggero, di una struttura diversa da quelli d'Europa. Non si curvava in archi e cupole, ma si tendeva in strati orizzontali, il che dava agli alberi, alti e solitari, l'aspetto un po' delle palme o un piglio eroico e romantico di navi tutte attrezzate e pronte a partire, ma con le vele non ancora spiegate. E al margine dei boschi, un'apparenza strana, come se l'intero bosco vibrasse leggermente. Nelle grandi pianure crescevano sparsi i vecchi spineti nudi e torti. L'erba aveva l'odore pungente del timo e del mirto delle paludi. In certi punti il profumo era così forte da far dolere le narici. Tutti i fiori che sbocciavano sui prati o fra i rampicanti e le liane della foresta erano piccolini come quelli dei bassopiani. Soltanto all'inizio delle grandi piogge spuntavano gigli monumentali dal profumo pesante. Il respiro del panorama era immenso. Ogni cosa dava un senso di grandezza, di libertà, di nobiltà suprema. Il tratto più caratteristico del paesaggio e della vita lassù era l'aria. Ricordando un periodo passato sugli altipiani d'Africa, si ha la sensazione sconcertante di essere vissuti nell'aria. Il cielo era di solito celeste pallido o violetto, solcato da nubi maestose, senza peso, in continuo mutamento, erte come torri. Ma aveva in sé un tale vigore d'azzurro da colorare anche i boschi e le colline accanto di una tinta fresca e profonda. Nel pieno del giorno l'aria in alto era viva come una fiamma, scintillava, ondeggiava e splendeva come acqua che scorre. Specchiando e raddoppiando tutti gli oggetti, creando grandi miraggi. Lassù si respirava bene, si sorbiva coraggio di vita e leggerezza di cuore. Ci si svegliava la mattina sugli altipiani e si pensava: eccomi qui, è questo il mio posto. Il massiccio del Ngong, proteso in una lunga cresta da nord a sud, è coronato da quattro vette piene di nobiltà, come onde immobili, di un azzurro più fondo contro il cielo. Sale a 2400 metri dal mare e a 600 dalla campagna circostante, ma ad ovest è più ripido e più scosceso, e le rocce cadono a picco verso la valle del Gran Rift. Il vento soffia incessante da nord-nord-est. È lo stesso vento che sulla costa araba e africana chiamano il monsone, il vento di Levante che era il cavallo favorito di Re Salomone. Qui, sugli altipiani, pare soltanto una resistenza dell'aria di fronte allo slancio con cui la terra si scaglia nello spazio. Picchia dritto contro il Gong. Il versante delle colline sarebbe il posto ideale per lanciare gli alianti. Le correnti li solleverebbero sopra le cime. Le nuvole in viaggio con il vento urtavano contro la parete, restando sospese là intorno o incagliandosi sulla vetta e rompendo in pioggia. Ma quelle più alte, che veleggiavano al di sopra del massiccio, si dissolvevano ad ovest sul deserto infiammato della valle del Rift. Tante volte da casa mia guardavo quelle maestose processioni avanzare, vedevo quasi con stupore le loro orgogliose masse fluttuanti appena superate le colline sciogliersi nell'azzurro e sparire. Dalla fattoria le colline cambiavano molte volte. Durante il giorno, a tratti sembravano vicine, a tratti lontanissime. La sera, quando imbruniva, da principio sembrava che un sottile filo d'argento orlasse tutto il contorno della montagna scura. Poi, col calare della notte, le quattro vette divenivano più piatte e smussate, come se la montagna si dispiegasse e si allargasse. Intorno a noi si apriva un paesaggio unico. A sud, fino al Kilimangiaro, le vaste pianure della grande zona di caccia. A ovest e a nord, la falda delle colline che parevano un parco, con dietro le foreste. Più in là, fino al Monte Kenya, la terra tutta ondulata della riserva Kikuyu, lunga più di 150 chilometri. Un mosaico di piccoli campi di mais, quadrati, boschetti di banani e terre da pascolo, con qua e là il fumo azzurrino di un villaggio indigeno, tutto cucuzzoli come un grappolo di tane da talpa. Verso ovest invece si estendeva il paesaggio arido, lunare, della bassa africana. Il deserto brunastro e punteggiato qua e là, senza regole, dalle piccole chiazze degli spineti, fumi serpeggianti si compongono in disegno, con sentieri verde cupo tutti torti. Sono i boschi di acacia, dagli alberi vigorosi, coi larghi ombrelli e le spine come spade. Qui cresce il cactus e qui sono di casa la giraffa e il rinoceronte. Anche sulle colline, quando ci si arriva, il paesaggio è paurosamente grande, pittoresco e misterioso, sempre diverso, con le lunghe vallate, gli sterpeti, i pendii verdeggianti, i burroni fra le rocce. In alto, sotto una delle vette, si trova persino un boschetto di bambù. Ci sono sorgenti e pozze. Io mi ci accampavo vicino. Al tempo mio, sugli altipiani, vivevano il bufalo, l'antilope, il rinoceronte. Quelli molto vecchi fra gli indigeni si ricordano di quando c'erano ancora gli elefanti. Peccato, pensavo sempre, che il Ngong fosse riserva di caccia solo per un piccolo tratto fino alla punta della collina più a sud. Quando la colonia si fosse arricchita e Nairobi, la capitale, fosse diventata una grande città, gli altipiani sarebbero stati un parco di caccia incomparabile. Ma nei miei ultimi anni in Africa, molti giovani bottegai di Nairobi, la domenica, invadevano la collina con le loro motociclette, sparando a tutto quello che vedevano. Probabilmente gli animali da caccia grossa cominciarono allora a disertare gli altipiani, spingendosi al di là degli spineti e della distesa sassosa più a sud. Sui versanti e persino sulle cime delle colline si camminava facilmente. L'erba era bassa come in un prato e qua e là, fra le zolle, sbucava la pietra grigia. Lungo la cresta, su e giù per le cime, correva come un poco ripido trenino a cremagliera uno stretto sentiero di caccia. Una mattina che ero accampata all'aperto, arrivai fin lassù. Sul sentiero trovai tracce fresche e sterco di un branco di antilopi. I grandi, pacifici animali in lunga fila dovevano essersi spinti all'alba fin sulla cima, pareva, solo per contemplare la terra che si estendeva in basso ai piedi delle colline. Alla fattoria coltivavamo caffè. Eravamo un po' troppo in alto per il caffè e si faticava sodo. Non siamo mai stati ricchi, ma una piantagione di caffè, quando si impadronisce di noi, non ci lascia più. Rimane sempre qualcosa da fare, si è sempre in arretrato col lavoro. In quel paesaggio selvatico e irregolare, un pezzo di terra divisa e coltivata come si deve faceva un bell'effetto. Più tardi, quando andai in aeroplano e imparai a riconoscere la fattoria dall'alto, la piantagione di un verde vivido in mezzo al verde grigio della collina mi parve bellissima. Capii quanto sia forte nell'uomo il bisogno di forme geometriche. Tutto intorno a Nairobi, e specialmente a nord, la campagna è divisa allo stesso modo. La gente là non pensa ad altro, non parla d'altro che della semina, della potatura e della raccolta del caffè. La notte a letto continua a chiedersi se e come può migliorare la piantagione. Coltivare il caffè è un lavoro lungo, ben diverso da come si immagina quando giovani noi stessi e pieni di speranze si portano dai vivai sotto la pioggia di rotta le cassette con i giovani germogli lucenti o quando si esce nei campi con tutta la gente della fattoria per sorvegliare come sistemano le piante una accanto all'altra nella terra molle che le farà crescere e come le circondano di fitti sipari di rami strappati agli arbusti per proteggerle dal sole, perché il privilegio di tutte le cose giovani è l'oscurità. Ci vogliono 4 o 5 anni prima che rendano, e nel frattempo si è dovuto lottare con la siccità, con le malattie, con le erbacce che invadono i campi, fitte e sfrontate. Il camedrio, dai pericarpi lunghi e scabri che si attaccano ai vestiti e alle calze. Qualche germoglio è stato piantato male, coi fittoni piegati, e muore proprio quando comincia la fioritura. Se ne piantano poco più di 600 ogni mezzo ettaro, e io avevo una piantagione di circa 300 ettari. Fra i filari, per parecchie miglia, i buoi portavano la mia gente su per i campi pazientemente, aspettando il premio della loro fatica. La piantagione è bellissima in certe stagioni. Quando le piante fiorivano, al principio delle piogge, era uno spettacolo stupendo, come una nuvola di gesso nella nebbiolina fine, per più di 300 ettari. Il fiore di caffè ha un aroma delicato e leggermente amaro come quello dei fiori di biancospino. Quando le bacche mature facevano rosseggiare i campi, anche le donne e i bambini, i totos come li chiamavano, venivano a fare la raccolta insieme con gli uomini. Alla fine portavano il caffè allo stabilimento vicino al fiume con i carri e le carriole. I nostri macchinari non potevano dirsi perfetti, ma eravamo stati noi stessi a progettare e costruire lo stabilimento e ne andavamo orgogliosi. Una volta un incendio lo distrusse completamente, fummo costretti a ricostruirlo da capo. Il grande essiccatore girava e girava, rotolando nel suo ventre di ferro il caffè con un frastuono di ciottoli battuti dalle onde sulla riva. A volte il caffè era asciutto e pronto per essere levato dall'essiccatore nel cuore della notte. Che momento pittoresco, con tutte le lampade antivento nell'enorme stanzone buio dalle pareti piene di ragnatele e di loppe. I visi ansiosi dei neri luccicavano alla luce intorno all'essiccatore. Lo stabilimento pareva appeso alla notte africana, come una gemma all'orecchio di un etiope. Più tardi il caffè veniva sgranato, classificato e scelto a mano, poi messo in sacchi cuciti con un ago da sellaio. Finalmente, prima dell'alba, mentre ero ancora a letto, sentivo i grandi carri carichi di sacchi, 12 per ogni tonnellata, tirati da 8 paia di buoi, mettersi in cammino su per la lunga buia salita della collina che portava alla stazione di Nairobi, fra grandi grida e rumore di sonagli, e i conducenti che seguivano le bestie correndo. Per fortuna dovevano fare solo quella salita. La fattoria si trovava a 300 metri sopra Nairobi. La sera andavo incontro al corteo di ritorno. I buoi stanchi, guidati da un piccolo toto, avevano la testa penzoloni. Gli uomini strascicavano le fruste nella polvere. Il nostro compito era finito. Entro un giorno o due il caffè sarebbe stato caricato su una nave. Non ci restava che sperare di venderlo a buon prezzo nelle grandi aste di Londra. Avevo 3.000 ettari, di cui la piantagione occupava solo una piccola parte, il resto era bosco, tranne 500 ettari riservati alle Shambas degli Squatters. Gli Squatters sono indigeni che vivono sulla terra di un colono bianco, coltivandone qualche ettaro per proprio conto, e in cambio lavorano per il padrone un certo numero di giorni ogni anno. I miei Squatters probabilmente vedevano il rapporto in una luce completamente diversa. Là erano nati. Là spesso erano nati anche i loro genitori e avevano tutta l'aria di considerare me una specie di squatter di marca superiore, un ospite dei loro possessi. Le Shambas erano le parti più vive della fattoria. Cambiavano col cambiare delle stagioni. Il mais era più alto delle nostre teste quando si camminava nei sentieri stretti e induriti da tutti i passi fra gli alti reggimenti fruscianti. Poi, quando le pannocchie erano mature, le donne facevano il raccolto e la battitura. Loppe e steli venivano bruciati. Per tutta la fattoria allora si vedevano innalzarsi sottili colonne di fumo. I Kikuyu coltivavano anche le patate dolci, dalle foglie un po' simili a quelle della vite, tutte intrecciate in una specie di tappeto fitto, e zucche di vari tipi, grosse, gialle e picchiettate di verde. A entrare nelle Shambas spesso la prima cosa che cadeva sott'occhio era il di dietro di qualche vecchietta, tutta china a lavorare la terra come uno struzzo che nasconde la testa sotto la sabbia. Ogni famiglia Kikuyu aveva un gruppetto di capanne tonde a punta e di piccole capanne di spensa. Alcune servivano da ripostigli. Lo Lo spazio là in mezzo era vivo, la terra dura come cemento. Ci macinavano il mais e ci mungevano le capre fra un gran razzolare di bambini e di polli. E spesso, nell'azzurro del crepuscolo, andavo a caccia di pernici nei loro campi di patate dolci. Sugli alberi dai lunghi rami frangiati, ultimi superstiti della foresta che un tempo copriva tutta la fattoria, i coloni lanciavano il loro sonoro richiamo. Avevo anche circa 1.000 ettari di terra da pascolo, dove l'erba alta ondeggiava e si curvava sotto il vento come il mare. I pastorelli kikuyu vi conducevano a pascolare le mucche. Nella stagione fredda si portavano dalla capanna un po' di brace ardente in certi cestelli di vimini per scaldarsi. A volte provocavano grossi incendi, disastrosi per l'allevamento del bestiame. Gli anni della siccità, anche le zebre e le antilopi scendevano fino ai nostri pascoli. La nostra città era a Nairobi, a una ventina di chilometri sulla pianura in mezzo alle colline. Là si trovavano il palazzo del governatore, la sede centrale delle grosse ditte, di là veniva governato il paese. Non esiste vita per noi senza una città, anche se ne pensiamo più male che bene, attira per forza i nostri pensieri per una specie di legge di gravità. L'alone luminoso, che da certi punti della fattoria si vedeva sovrastare Nairobi la notte, mi ricordava le grandi città d'Europa facendomi fantasticare. Quando arrivai per la prima volta in Africa, non c'erano automobili. A Nairobi ci si doveva andare a cavallo, oppure su un carro tirato da 6 muli che si lasciavano poi nelle stalle della società dei trasporti per gli altipiani. Nairobi allora era una città eterogenea con qualche bel palazzo nuovo in muratura, interi quartieri di bungalows, uffici e vecchie botteghe costruite con pezzi di lamiera ondulata fra i filari di alberi di eucaliptus, nelle strade nude e piene di polvere. Gli uffici della Corte di Giustizia, il Dipartimento degli Affari Indigeni e la Clinica Veterinaria erano talmente sgangherati che provavo un gran rispetto per i funzionari governativi capaci di far qualcosa, sia pur pochissimo, nei bugigattoli neri e infocati dove si trovavano costretti a lavorare. Ma, bene o male, Nairobi era sempre una città dove si poteva fare delle compere, sapere qualcosa di quello che succedeva nel mondo, pranzare all'albergo o andare a ballare al club. Una città piena di vita, in continuo movimento, come acqua che scorre. Un luogo che stava crescendo come le cose giovani, che di anno in anno e persino al ritorno da un safari si trovava cambiato. Costruirono una nuova sede del governo, un edificio solenne e fresco con una bella sala da ballo e dei bei giardini. Misero su grandi alberghi, imponenti esposizioni agricole e belle mostre di fiori, mentre noi altri del cosiddetto mondo elegante aggiungevamo di nostro alla vita della città qualche movimentata scenetta da melodramma. Cerca di approfittare più che puoi di me e del tuo tempo, ecco il motto di Nairobi. Wir kommen nie wieder so jung zusammen, non torneremo più così giovani. In genere, io e Nairobi ci intendevamo abbastanza bene. Una volta, passandoci con la macchina, pensai che il mondo non sarebbe esistito senza le sue strade. Il quartiere indigeno e quello degli immigrati di colore erano molto estesi rispetto alla città europea. La città Swahili, sulla strada del club Mutaiga, aveva una pessima fama in tutti i sensi, ma era un posto vivo, sporco e pieno di allegria, dove a qualsiasi ora del giorno e della notte succedevano un sacco di cose. Le case erano fatte per la maggior parte di vecchie latte di paraffina, appiattite a furia di martellate e arrivate a vari stadi di ruggine, come rocce corallifere o strutture fossili. Lo spirito della civiltà avanzata ne stava svaporando giorno per giorno. La città somala era più distante e appartata, forse a causa della segregazione delle donne. Alcune belle ragazze somale di pessima reputazione vennero a vivere al bazar, dando parecchio filo da torcere alla polizia di Nairobi. Erano intelligenti e affascinanti, delle vere sirene, ma le donne per bene non si facevano vedere. Esposto a tutti i venti, senza un filo d'ombra, polveroso, il quartiere ricordava forse ai somali il deserto dove erano nati. Gli europei, abituati a vivere nello stesso posto per anni, a volte per generazioni, non potevano capire la completa indifferenza delle razze nomadi per il luogo dove dovevano piantare le tende. Pareva che le case sparse qua e là, senza regola, sulla nuda terra, fossero state messe su a furia di chiodi lunghi 10 centimetri e non potessero durare più di una settimana. Si restava sorpresi, entrando, di trovarle così pulite e linde, profumate di incensi arabi, piene di bei tappeti, di drappi, vasi di ottone e di argento, spade con impugnature d'avorio e nobili lame. Anche le donne erano riservate, gentili, gaie e ospitali, con le loro risate argentine. Al villaggio mi consideravano di casa, grazie al mio servo somalo Farah Aden, che stette con me in Africa dal primo giorno fino all'ultimo, e andammo spesso alle loro feste. I grandi matrimoni somali sono feste stupende, degne di un'alta tradizione. Come ospite d'onore potevo entrare nella camera nuziale, col letto e le pareti coperte di drappi e ricami dallo splendore delicato. Là in mezzo, dritta e rigida come la mazza di un cerimoniere, stava la sposa dagli occhi neri, adorna di sete pesanti, oro e ambra. Mercanti e trafficanti di bestiame, i somali percorrevano in lungo e in largo il paese coi loro asinelli grigi, carichi di merce. A volte, al villaggio ho visto anche i cammelli, superbi figli del deserto, resi dal deserto, duri e incuranti del dolore terrestre, come i cactus e come i somali. I somali si mettono sempre nei guai per le liti terribili fra tribù e tribù. In queste cose ragionano e sentono in modo diverso dagli altri. Farah apparteneva alla tribù di Habr Yunis e quindi automaticamente io avrei dovuto parteggiare per Habr Yunis. Una volta, nella città somala, scoppiò una vera battaglia fra le due tribù di Dhul Bahantis e Habr Kaolo, con fucilate, incendi e una decina di morti. Per farli smettere dovette intervenire il governo. Farah in quel periodo aveva un amico, Said, un ragazzo della sua tribù, che veniva sempre a trovarlo alla fattoria. Era un ragazzo delizioso e fu un dolore per me quando seppi dai miei servi che mentre stava prendendo il tè da una famiglia Habr Kaolo, uno della tribù Dhul Bahantis, in un momento d'ira aveva sparato due fucilate a caso contro la finestra, spezzandogli una gamba. Dissi a Farah che mi dispiaceva molto. «Cosa? Said?» esclamò Farah con veemenza. «Si meritava di peggio. Perché è andato a prendere il tè in casa di un Habr Kaolo?» Gli indiani a Nairobi dominavano il grande quartiere commerciale del bazar. I mercanti più ricchi avevano le loro ville proprio fuori la città. Jevanje, Suleiman e Virje, Alidina, Visram. Amavano adornarle di scalinate di muratura, di balaustre e di vasi rozzi fatti con la pietra morbida del luogo. Parevano le costruzioni di mattonelline rosa che fanno i bambini. Spesso offrivano il tè in giardino, coi pasticcini nello stile della villa. Intelligenti, educatissimi, avevano molto viaggiato. Il commercio era per loro quasi una seconda natura, al punto che non si sapeva mai se si aveva di fronte un individuo umano o il simbolo della loro ditta. Una volta sui magazzini di Suleiman Birge vidi la bandiera a mezz'asta. Conoscevo il proprietario, ero stata anche a casa sua. «Suleiman Virje è morto?» chiesi a Farah. «Mezzo», rispose Farah. «Mettono la bandiera a mezz'asta quando uno è mezzo morto?» domandai. «È morto Suleiman», disse. «Virje è vivo».